tappena di motore, vedi che sale anche da Antonello, vedi che anche a lui gli si mette la lancetta verso destra. Sì. Va bene, ok, ho visto che comunque si è ripreso la HR 5005, Ok. Antonio, io con 10 watt ti arrivo 9,20, così era. Sì. Lo stesso segnale che tu qua da me, 9,20. Però la differenza tra me e te, cioè se io tolgo l'attenuatore e tu mi fai un passaggio, sei fondo scala. Cosa vuoi ti dica io? A un certo punto lo so cosa dirti. Io bisogna proprio con un apparecchio come si deve. Adesso vediamo un po' se sa buscarmene uno. Ma niente. Sì. Un tosto. Antone. Guarda, te lo lascio libera, te lo lascio. Quanto mi hai detto che sto arrivando lì da te? Roba. Guarda, Com'è adesso? 30. Però, scusami, Antonio, io non lo so se... Io fra, ti vedo in negativo, Adesso? No, importante bianca sei, diciamo, 9,30. Però quando dici com'è, o cosa hai detto, vai a scendere i due di 20 dB. Già ti credo. Vabbè, sì, c'hai ragione. Però ero quasi a 150. Quando parlavi andavi in negativo, lo so, me ne sono accorto. Uff, io sto qua, sto iniziando a sudare, mi sa che lo spengo. No, lascialo stare ancora, risparmi la suff. Portamelo qua così sciogo dopo l'antenna. E la rifaccio. Ah, vabbè, la mantova tiene un kilowatt, giusto? Col cazzo tiene un kilowatt, non hai visto la mia, ho con 800 cazzo l'ho fusa. Ma qua sta erogando così però. Cosa vuol dire? La mia c'è sciocia. Compratela buona. Col capo la coppa buona. Ma ce la faccio a spendere soldi cazzo per antenne, no, non esistono. Mi sono sistemato la mia, adesso funziona come si deve, almeno. Guarda, Antonè, guarda adesso, adesso diciamo che ho 10 watt anche io. Ho spento tutto, guarda un po'. 35. Ma scusa un attimino, Jacopo. Come può essere 35 con 10 watt e 30, e quasi 40 con 1 kilowatt? Cioè, fammi comprendere, no? Giusto per capire. Perché non tira 1 kilowatt? Sì. Guarda, ti faccio la foto e ce la mando, così almeno sei tranquillo, va? Tutto quello che vuoi, io non sono tranquillo perché a me non mi interessa. Non mi interessa se il tuo smitter va male, Antonè, è inutile che non è essere tranquilli quello. È per farti capire a te che hai uno smitter che secondo me, poi, se tu ci vuoi credere o meno, non è valido a dare controlli. Nel senso che adesso io, credimi, ti mando la fotografia, se vuoi, ho 10 watt di apparato, ma 10 watt proprio, anzi, ti dirò di più che ne ho 8. E quindi è già da capire. Se te ne metto un kilowatt, come faccio ad arrivare da 9,30 a 9,35? Cazzo, questa è una mia domanda stupida, A meno che io l'apparecchio, già lo sai. Quando già lo sai, non c'è più di cadenza io. Sai il problema? Quando si può tirare in di là, si fa la taratura di quello che c'è da fare e l'apparecchio torna alla normale, il discorso è quello lì. Lo sai che il mio è un apparecchio, cosa posso dire, incrociato con un cocker. Sì, guarda, adesso io ti metto il mio apparato, ma proprio per Guarda, così sono 5 watt, ok? Perché ce l'ho regolabile. 5 watt, guarda, 10 watt, 20 watt, 40 watt, 45, non è da di più, non è da di più. Però te lo abbasso a 10 watt. Eccolo qua, così ho 10 watt io. Ho capito, aspetta un secondo, ecco. Allora, tu adesso fai un passaggio da 10 e poi attacco lineare e poi ti mando il video, vabbè? Vabbè, questo è 10 watt, ma io attaccare lineare si intende che devo farlo, vabbè, comunque, questo è 10 watt, ok? Se io attacco lineare deve aspettare che scaldi e che attacchi, perché è un valvolo, lo sai benissimo meglio di me. E vabbè, non c'è problema. Ok. Allora, io sto registrando adesso. Tu parla tranquillo e fai passaggi, così ti mando il video. Non ho capito niente. Ok. Ok. Guarda, sta ancora salendo perché diciamo che era spento, l'avevo spento. Comunque aspetta, così sono a colline attaccato, vediamo un pochino, eccolo qua. Adesso stacca un attimo. Allora, così attaccato, te lo faccio in diretta, eccolo qua, così sono staccato e ti dico che ho, aspetta un attimino, ho 20 watt, 20 watt, lo stavo pilotando con 20 watt, ma te lo abbasso a 10, eccolo qua, così è 10 watt, ok? Ok, adesso ti mando il filmato. Vabbè, mi puoi mandare il filmato, ma se non rende lo smitter tuo, non è colpa mia. Dimmi, Fra, scusami. No, infatti, no, ti sei corretto adesso, va bene come hai detto. Perché poco fa era 9,40, mi hai detto 10 watt. Poi sei sceso a 9,30, mi hai detto sempre 10 watt, hai detto un po' le gotte. No, mi sono corretto, io mano a mano che faccio la prova te l'ho fatta in diretta, Ho fatto da 1 kW, poi ho staccato tutto quanto e mi stava dando 20 watt. Perché lo stavo pilotando con 20 watt, poi da 20 watt sono sceso a 10, ora ho 10 watt. Aumenta un po' l'amplificazione. Aumenta un pochino, ora si è cambiato. Aumenta. Sarà la batteria, guarda adesso. Lo vedi, che ha cambiato, ha cambiato. Sì, ha cambiato, cioè, va bene, è sempre comprensibile. Sì. Però c'è una cosa, Tino, poi non ti voglio sentire lamentarti, quando ti arriva la bolletta? Anche tu hai ragione, Franco, credimi, anche tu hai ragione. Però vabbè, qualche sfizio tu gli dai, ce l'hai la cosa, come che è la Ferrari e la domenica non ti fai un giro, non dico ogni domenica, ma almeno una volta al mese. Metti un po' il microfono alla bocca, che c'è la Ferrari, la stai guidando oltre il comando. Guardati il video su WhatsApp, Tino. Sono distante 30 centimetri dal mic, Ho detto avvicinati un po' il microfono, che c'è la Ferrari e la stai guidando con il telecomando. Sai che io non sono di quelli che parlo così, avanti, sono a 15 centimetri dal mic. Però mi piace stare comodo a me quando parlo. Tino! Antonello, meglio di radio. E già sto facendo bene. Guardate il video, Tino, adesso, su WhatsApp. Va bene, adesso guardo un attimino cosa mi hai fatto, Ok, controlla e vedi un po'. Che devi andare a vedere un pochino il Mac che indico la radio, T. Capito? Antonello? Il cacciavite entra o nello smitter? E girano tutta un'ora. Sono entrato. Adesso si guarda il video, vedrà che c'è la giornata. Vabbè. Quante ore sono? dovrebbero essere le 22:38. Ragazzi, io un altro paio di passaggi e chiudo le trasmissioni. Tino, vuoi provare quel microfono un attimo? Aspetta, allora, devo cacciare Antonello prima di tutto. Allora, attaccato dallo smitter che tu mi hai fatto vedere, Antonè, è 9:60, ok? Poi ho staccato con 20 watt e ti arrivo 9:40. Poi ho abbassato i 20 watt, li ho abbassati a 10 watt e ti arrivo 9:35. Questo è quanto mi hai spedito tu adesso, quindi se tu non riesci a vederlo bene è anche un grosso problema, perché attaccato arriva a 9:60, non 9:40 come stavi dicendo. Dimmi, Gavino. Quindi Antonio, gli mancano 90 gradi a un occhio e 150 all'altro. Purtroppo mi dispiace dirlo, sì, ma non l'ha guardato bene lo smitter, ma io già l'ho visto bene con i cannocchiali, ma già l'ho visto bene lo stesso. Cazzo, con cannocchiali? Ebbene, anche io gli occhiali, Antonio, non è che io alla tenera età di 53 anni ho iniziato a mettermi gli occhiali anche io, e quindi devo guardare le cose serie, le devo guardare con almeno gli occhiali da vista. Gavi, sono con il più 5, l'HRM5005 con un'amplificazione a 8 e i toni sono a 4. Ma volevi provare che microfono volevi, con che radio volevi provare quel microfono? Ah, ok, dai, lasciami il tempo. Mettilo come lo mettevo io, quel microfono, Tino, nel mio BP5. Io lo usavo così, cioè non come l'hai messo tu, ma totalmente differente. Amplificazione a manetta e i toni a manetta. Aspettate un attimino solo, che qua sono con un'altra cosa. Allora, ora, in FM, siamo in FM, ok? Ok. Ecco qua, ho alzato un pochino il watt e siamo con questo è il, però mi interessa vederlo un pochino anche in AM, non solo in FM. Comunque, adesso sto utilizzando l'MVP5, che Franco mi ha detto che è amplificato, sì, però non so come sta andando. Una bassa amplificazione. Aspetta, mi allontano un pochino, vediamo se è cambiato, Ancora peggio, a bassa amplificazione. Aspetta, ma tu sei vicino a lui, il discorso è quello. Da me va bene, perché io sono distante, capito? Ma tu sei troppo vicino a lui, è come avere Carlo Sfaviero quando usavo il microfono amplificato, che io dicevo abbassa, e poi in distanza usciva benissimo, il discorso è quello lì. Devi fare proprio distanti, se no è inutile. Voi siete vicino, tra Franco e tu siete neanche a quanto posso dire, neanche un chilometro. Aspetta Antonio, un attimino solo, scusa, perché forse effettivamente era troppo alta l'amplificazione. Guarda ora, Gabi. A quanto è il mic dalla radio? Il mic dalla radio è come quando lo uso con 60. Ok, lascialo così, lascialo come quando lo usi con 60. Abbassa l'amplificazione appena. L'ho abbassata e i toni sono sempre, aspetta un attimino che qua c'è il, sono al 3. Abbassa l'amplificazione. C'è da dire che lo smitter quasi non si sta muovendo, Non c'entra niente, i toni a quanto sono? A 3. Mettili a 1. Vedi un po', questo è a 0 e questo è a 1. Metti a 2. Eccolo qua, a 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok. Cambia microfono. Metti 60. Perfetto. Poi Antonio mi devi dire una cosa, Adesso cambio il microfono, poi mi dici una cosa. Perché questo microfono non ha la batteria? Ma me lo dici dopo, aspetta, Secondo te perché cazzo c'è la batteria? Se c'è dove cavi, cazzo. quello è rimettato direttamente dall'apparecchio, batteria non ne ha. Me l'ha dato così. Ma se io ti dico, me lo dici dopo, è per non rompere le balle quando parli, nel senso che se lui ha un orecchio di un microfono e ci parli sopra tu, l'orecchio di Gavino si abitua anche alla tua modulazione. Ti ho detto, me lo dici dopo, non mi ascolti. Adesso devo rifare la prova. Vabbè, Gavino, guarda se riesci. Vai. Questo è il 60, Ok, fammi un passaggio più lungo. Aspetta Antonio, non parlare, perché sta guardando con un apparecchio particolare la modulazione e l'emissione del radio. Guarda un pochino, rapido, dimmi se devo cambiare. Cambia, metti il più 5. Eccomi qua siamo col più 5. Non so, magari si è abituato, cioè sì. Si sente diversamente, però mi interessa se si assomiglia. No, sono 60. No, sono col più 5, credimi, sono col più 5, se no ti avrei fatto sentire il look, ma ti posso far sentire la slitta. Aspetta, non va. Metti 60. Ok, adesso lo cambio, aspetta. Eccolo qua, questo è 60. Vediamo un pochino, l'amplificazione qua posso alzare solo dalla radio, eccolo qua. Non toccare niente, è simile. Antonello, hai visto? Sì, simile, è uguale, cazzo. Te la accorgi solo per qualche variazione, ma millimetrica la verità. Quello tipo di millimetrica. Adesso io, vabbè, non c'ho l'apparecchiatura che c'è tu, io già lo sai che c'ho un cesso come baracchino, quindi come apparecchio. Non c'ho un modulometro, eccetera, eccetera, che ti segna cazzo di picchi, eccetera, eccetera. Se non mi sarei accorto subito a un certo punto. Quei soldi non ce li ho e non li posso neanche spendere. Il discorso è quello. Ma in seguito magari, se dovessi vincere a superare la lotto, mi comprano di quegli apparecchi, mail, cazzo, che si può agganciare il televisore, quello grande, 50 pollici, allora ti posso dire, guarda, tu c'hai queste cose qui, eccetera, eccetera. E me le accorgerei subito, ma purtroppo me le devo arrangiare con quello che ho. C'ho un cesso e me lo devo tenere. Va bene, dopo vi faccio un interrogatorio, così cambio saputa e mi dite se che microfono sto utilizzando, va bene? No, non ce ne devi fare cosa, devi dire quando tu cambi il microfono, lo devi dire quando cambi. È certo che sì, ma era giusto per un indovinello, indovinello cosa sto mescolando nel mio cestello. Devi dire, sto cambiando, così io prendo e devo fare una prova. Sto facendo, ho due analizzatori aperti. Ok, Gavino, ho capito. Questo è sempre il 60. Ok. Fammi un passaggio con 60 un po' più lungo. Io ti faccio il passaggio con 60 un po' più lungo. Questo è il mic MC60. Volevo sapere solo se si assomigliava l'altro microfono cablato sempre Kenwood. Vai col più 5. Adesso voglio fare una prova. Allora, uno di questi giorni, se non c'è nulla da fare, Tino, sali qua e agganci l'MC60 e ci parli tu naturalmente da qua, con questo apparecchio qua, e poi l'MB+5, e vediamo se c'è differenza. Facciamo le prove con un Gavino. Voglio togliermi il gusto, cioè in pratica, perché se parlo io, l'MC60 fa schifo per forza, perché l'ho già provato quando avevo comprato l'IC80, quindi a un certo punto l'avevo messo in saletta per quel motivo lì. Voglio vedere se in pratica c'è differenza oppure no? Se ne vogliati, no? Ti metti d'accordo con Gavino uno di queste domeniche, che non c'è niente da fare, sale qua a casa e facciamo le prove. Sì, Antonè, però siccome sono in fase di una prova io adesso, e ci parli tu, quando lui mi dice cambia microfono, sta guardando i parametri dell'MC60. Se parli tu, non può fare il paragone con l'MP5. Quindi chiedo cortesemente di fare un attimino di silenzio radio, se possibile, quando faccio le prove, in maniera tale che lui riesce a mettere in posizione tutta la strumentazione che ha, sia per uno che per l'altro. Cosa stai usando adesso? L'MVP5, così è giusto? Sì, adesso sto usando l'MVP5, però queste prove qua le vorrei fare possibilmente, se possibile, in AM, perché è più performante la cosa. No, io voglio vederlo un attimino in FM, la chiarezza un attimino. Allora, l'MVP5, fammi un passaggio e ti dico cosa devi fare. Ok, questo è l'MP5, ti ripeto, sempre con l'amplificazione ce l'abbiamo a 7 e i tuni ce l'abbiamo a 2,5. Vediamo un pochino se ha cambiato qualche cosa. Metti l'amplificazione a 5. Quindi la devo abbassare. La metto a mezzogiorno, che è al 5. Ok, fai un passaggio così a 5. Guarda un pochino se sale, scende, destra, sinistra, cosa vuoi ti dica. Qua siamo con l'amplificazione, col mic gain del microfono a 5. E non sta salendo niente lo smitter, Mettila a 4. Ancora mi fai abbassare. Eccolo qua a 4. Distanza del mic abbiamo circa 30 cm, i toni sono sempre rimasti a 3 e l'amplificazione a 4. Metti il 60. Eccolo qua, questo è il 60, la stessa distanza, stessa timbrica di modulazione, e dimmi tu adesso. Fanno un passaggio lungo, un po' lunghetto. Passaggio un po' lunghetto, prove tecniche di trasmissione, scusando anche gli altri che ci sono all'ascolto. Frequenza 27.105, mic MC60. Vediamo un pochino se ti è bastata. Boh, va bene, metti più 5, dai. Dopo il rilancio per Antonello. Ok, questo è il più 5. Vediamo un attimino, vai Antonello. Ok, comunque ricordate sempre la differenza tra la M e l'FM. In AM c'hai l'ampiezza modulata, in FM c'hai la frequenza modulata, che sono due discorsi diversi, capito? Quindi in pratica il microfono agisce in modo totalmente diverso, dalla M a FM agisce totalmente in modo diverso, in FM si esce molto meglio, la verità, con questi apparecchi qua. Io parlo dei Kenwood, perché se parlo dei baracchini, là per lì che sono dei cessi, quindi la frequenza modulata è come se sono gli stessi, perché sono trovati talmente strani che non ne vale manco la pena a un certo punto. Quindi l'unica cosa è, se vuoi fare le prove, bisogna fare, se vuoi fare le prove in ampiezza modulata, si restringerà tutto quanto, hai capito? Basta che vai in AM e te ne accorgi subito, cambia totalmente. Anzi, in FM è molto meglio la verità modulare, c'ha ragione anche Gavino, che gli piace modulare in FM, perché la modulazione è molto più chiara, molto più forte, quello è già vero. Con il che uno naturalmente è così, perché io quando modulavo in FM mi succedeva, per dire, che se devo parlare con qualcuno di fuori, in pratica NM lo sentivo con QRM e invece l'FM lo sentivo benissimo, addirittura 9.40, 9.60, e ti parlo non di questo 140 qua, ti parlo del 680 che c'avevo prima, tutto lì. Sì, sì, Antonio, infatti noi già siamo quasi sempre in FM. Adesso passiamo in AM, così vediamo un po' questa cosa, il confronto, dai. Dai, andiamo in AM tutti. L'ha capito. Se fai la prova con la batteria. Se vuoi fare la prova, non mi costa niente. No, Antonio, non c'è problema, grazie. No, era giusto così, per vedere, per provare, ma già va bene così, no, non ti mettere problemi. Comunque, mi ascolti bene con questo microfono? Sì, ti ascolto bene, ci mancherebbe. Tu c'hai la qualità giusta per quel microfono lì, io non mi trovavo bene, capito? Quindi te l'ho anche detto, a me non mi va bene, né il più 4, tanto meno il più 5. Ne ho avuto 5 di MB più 4. Li ho dovuti modificare tutti e li ho dati tutti. Ho cominciato a pagare il primo 30 euro, la 30 sono passato a 45, da 45 a 50, da 55 a 60, quindi ridotti. L'ultimo che ho preso l'ho lasciato a Giovanna. Figurati tu. Gli altri erano tutti venduti. Tutti venduti quattro le ho pagate io, né più né meno. Io ho cambiato la capsula, gli ho messo la capsula nuova perché dovevo sentirli cazzo come uscivano, c'erano cazzo dei cessi, cazzo, non dei microfoni MP4 che si vantavano per un sacco di gente che usciva bene. Usciva veramente male, ma male non c'era verso di. Tutto proprio strano era. Allora avevo dovuto metterci le capsule dei microfoni di quei monitor dei videocitofoni, quelli verdi, figurati. Luce che andavano bene, non c'era nessun'altra cosa. E così ho fatto con l'MB più 5, perché la capsula sua che mi è stata messa non saliva manco morta. Poi andavo a parlare e non saliva. Invece adesso sale, esce come si deve, cazzo, almeno quando tu parli gli smitter salgono, invece prima non nulla, salivano appena, hai capito? Quindi quando uno cambia la capsula la questione cambia. Lo farò anche addirittura con il microfono che mi hai dato tu, insomma, in questi giorni lo farò. Così ti tocco i toni alti e ci metto i toni medi e i toni bassi, così almeno dici che se c'è meglio o se c'è peggio. Adesso chiamiamo un attimino per essere entrato capino. Ascolta un attimino, guardami bene il segnale di questa radio, ma guardalo bene però, perché voglio fare una comparazione con te. Vediamo un attimino a quanto arrivo e poi io ti ho dato due microfoni, Esa Delta e il Tanner, non hai preparato neanche uno. Guardami il segnale, poi mi risponde. Il segnale è 9P10, allora il Tanner non esce per niente, non c'è niente da fare. Ho controllato la capsula, ho controllato l'alimentazione e non esce per niente. Invece il segnale sono riuscito a farlo funzionare, già l'hai visto con questa vedetta nera che mi ha dato tu. Quello sono riuscito a sistemare tutto e esce perfetto. L'unica cosa che ho cambiato la capsula, come hai detto tu, che c'è i toni alti, quindi i toni alti e gli metto una capsula di quelle piezoelettriche che montano nei VHF, che sono migliori, e c'è i toni bassi e medi, e quindi esce benissimo. Ok, vediamo un attimino, capisci? Sì, ci sono. Antonio, trasporto, metti in saletta, voglio vedere una cosa. Ma io mi sto sforzando, tra poco ballava a fare il cocco, dimmi. Ma io metto in saletta, cazzo, metto in saletta, porra. Aspetta, ora ci metto in saletta sotto dove era prima. Aspetta, perché ci avevo sopra al baracchino 2009, per esattezza, quello di Giovanna, che la M c'è perfetto in FM, invece non c'è un tubo, e bisogna che lo controllo. Allora, vediamo un po'. Ok, adesso metto in saletta, l'aggancio. Aspettati. 1, 2, 3, saletta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pronto. Ok, mi manda per andare tu l'uniforme, se era bravo. Mi manda a trovare. Ci puoi andare uniforme se era bravo? Sì, ci posso andare, però tieni presente che la parecchia è spostata di quasi 2,5 km, quindi mi devo centrare. Ti sto informando di quello, mi ero detto anche a Tino l'altro giorno. Ti centro io, non ti preoccupare, ti centriamo noi, vai. Ah, vi centro io, voi parlate tranquilli, già vi centro io, non ti preoccupare. E tocca a me centrarmi, no a voi, se no cazzo uno in pratica risulta 2,5, dato 1,5, capito? È un casino, quindi in pratica tu parli e io mi centro su di te, dopodiché non c'è nessun problema, no? Prova radio, one, two, prova radio, guarda se vi copre, si riesce a centrarmi. Prova radio, one, two, test, e prova radio, uniform, Sierra Bravo, 27,105. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ti sento benissimo, strano, oggi. Forse magari la tua volta, però, mi porto presso dei rumori, non ho capito perché. Aspetta un secondo, voglio... anche perché c'ho un po' ci sono iscritto 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po' su quella ventola è tremenda, Guardate a me se sono centrato o meno. Sì, sei centrato anche tu, ti sento bene, strano, adesso è allineato, non so, questo apparecchio qua, va bene, va bene. Io sto usando il più 5 qua ora, Adesso faccio anche una prova con 60, aspetta. Questo è il 60, vediamo un pochino se come mi sentite. Io ti copio bene, vai Antonello. Sì, ti sento bene anch'io, e tu non mi ascolti, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, fai un passaggio più lungo Antonello. Antone, la ventola è che rompe le scatole. Fai un passaggio lungo, Antone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda, il microfono è a 1. Compressore come me è stato regolare tu. Allora, facciamo così. Allora, il compressore è a manetta adesso. Il microfono è a 1, guarda un po'. Antonello, allora il compressore serve per tagliarti la voce, mettilo a 0, il compressore non te ne fai nulla, tu non devi parlare a voci, mettilo a 0. Metto a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fai da 9 a 9 più 20 qua. Allora Antonello, io ti sento bene, per me sei allineato. Sono allineato, l'altra volta quando ho usato l'apparecchio, io sono col approccio inserito, comunque tu non lo senti bene, Gavi? Sì, io lo copio bene, io lo copio allineato 27,105, perfetto. Ah, anche io, quindi Antonio, secondo me tu la radio la devi fare scaldare e basta, perché poi si mette a posto da sola. Dei 2 mesi che non usavo, la verità è cominciata a tua. Allora, come si dice? Ci voleva la figlia, ci voleva. Era tutto fuori, tutto strano. Una volta che poi l'ho usato è cominciato a sistemarsi da solo. Mi racconto che in pratica mi ha dato l'area con non ti posso dire, con la gente mi sentivo fuori, mi sentivo, capito? Gente che fuori fa questo, tutto lì, mi dovevo centrare, evidentemente deve scaldare, non lo so, devo usarlo spesso, il discorso è quello, e tu già lo sai, io andare fino a non è che ci entro tutti i giorni, a volte sono anche un mese e mezzo, due, si prenderà, perché c'è da fare a casa, già lo sai. Sì, adesso fammi un favore, siccome si sente troppo con la ventola, ti ripeto, ti rovina molto la radio, soprattutto in banda laterale, cambiati il microfono e vediamo un attimino se migliori. Secondo me migliorerai tantissimo, perché ti raccoglie tanta di quella mondezza che la metta a bassa. Cambiati il microfono. Con la ventola influisce molto, con la ventola influisce molto, porca miseria. Comunque non lo devi toccare, comunque quel microfono, questa delta lascialo così, che Antonè è alla grande, puoi fare quello che vuoi, però adesso va benissimo. Oh, santa pazienza, queste zanzingere mi stanno pungendo. Caccia, ce n'è tante, hanno rotto le scatole, cioè, già da adesso, vabbè, tu mi stai ascoltando bene, ti? Mi stava parlando Nicola, scusa Gabi, dimmi. Ho detto, tu mi stai ascoltando bene. Perfetto, ti avrei già detto cosa. Adesso come va? Microfono amplificato ZG? Meglio del Sadelta, raccoglie, quello lì non la raccoglie la ventola, Ah, ma io così sono contento, quindi pompa, va benissimo. Questo è l'M95. Sì, anche per me va meglio, Il microfono amplificato devi eliminare il rumore di fondo. Devi eliminare il rumore di fondo, Antonè, perché te li pesca tutti, per comunque la modulazione è migliorata tantissimo, Antonè, devi lasciarlo così e vedere se riesci a fare qualcosa per, cosa ti posso dire, per la ventola, perché è proprio fastidiosa, senti questo rumore a fondo e se ne prendi una più silenziosa o fai qualcosa, non lo so, o la bruci. Certo la brucio. No, già mi sistema l'alimentatore, quello mio che ha 40 anni, appena, d'estate, l'unico problema che c'ha è quando comincia a scaldare che parte i punti, io di qui sono punto al capo, il discorso è quello lì, l'alimentatore è quello autocostruito è un lavandino, hai capito? Quindi vabbè, già uso questo, sono qua e mi occupo un alimentatore e se la abbiglia in culo, di quelli come si deve, da 20, 40, 30 ampere, e ho finito di rompermi le palle. Beh, ragazzi, io vi mollo, vi saluto perché ho a Nicolas che si sta addormentando anche nel divano e devo metterlo dentro il letto e legarlo bene con la carta igienica e poi, non lo so, se qualcuno mi dà l'accendino lo metto a fuoco. Questa guarda, voi dite, ma cosa stai dicendo? Va bene ragazzi, dai, se ne avete voglia domani, ci sentiamo domani, io vado a fare un po' di compagnia a Nanna e poi anch'io mi corico, dai. Sì, sì, anche io, mollo, e niente, ce la risentiamo sicuro, se Dio vuole, i carabinieri lo stesso, ce la risentiamo domani, e vediamo un pochino. Antonio, se vuoi entrare domani mattino, quando è, già siamo qua, ok? Anche io chiudo. Ciao Tino, ciao Antonello, buonanotte Nicolas, e dai, ce le ascoltiamo le prossime. Vi saluto qua sulla 27105, chiudo e non riprendo. Dai, buonanotte a voi e al vostro cuore familiare. Di nuovo, ciao Tino e ciao Antonello, e anche buonanotte a chi si fosse fermato per fare un po' di ascolto. Corretti definitivo, ciao ciao, buonanotte. Ciao Tino, ciao Davide, ci sentiamo domani al limite. Se volete devo staccare la direttiva e pensare all'ex 300 per trovarla, così almeno vediamo se riesco ad arrivare da voi, dato che il vento non ce n'è, a meno che non fulmini, ma mi sembra strano. Ma se è stato martedì fulmini, a un certo punto non domani, domani ci sono 25 gradi, 25-28, quindi ci vediamo domani, eh? Già entro, così vi faccio compagnia. Ciao Antonio, dai, a domani, buonanotte, ciao Gabi, ciao. Ciao, buonanotte.